Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Una buona giornata a tutti da Valentina Furlanetto. Oggi ci occupiamo, come già abbiamo fatto ieri in realtà, di incentivi e ci focalizziamo oggi sull'eco casa. Gli incentivi statali varati dal governo venerdì 19 marzo danno una mano anche alle cosiddette eco case o case verdi, le abitazioni ecologiche. Infatti l'esecutivo offre contributi fino a 7.000 euro sull'acquisto di una casa ad alta efficienza energetica. Si può accedere fino al 31 dicembre 2010, ma meglio affrettarsi perché i fondi stanziati sono pochi, ammontano in totale a 60 milioni di euro e vanno ad esaurimento. Dunque chi prima arriva meglio alloggia, come si dice. Ma come fare per ottenerli? Quali sono le caratteristiche che devono avere queste case ecologiche? E da quando scattano? Per parlare di tutto questo abbiamo degli ospiti. Io saluto innanzitutto in studio l'ingegner Valeria Erba, presidente dell'ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico. Buongiorno. Buongiorno. E il notaio Giovanni Rizzi, che è in collegamento telefonico, membro della Commissione Studi Civilisti del Consiglio Nazionale del Notariato. Buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. A voi do il benvenuto agli ascoltatori che possono chiamarci se hanno alcune domande da porci. Immagino di sì, che molti siano interessati a questa opportunità che, come abbiamo detto, è limitata in quantità e anche nel tempo, quindi bisogna un po' affrettarsi. Il numero per chiamare è l'800240024 oppure per mandare un sms 349-238-6666. Ma prima di entrare nell'argomento di oggi diamo uno sguardo subito ai mercati che hanno iniziato la giornata in positivo, trainati al rialzo dalle buone notizie che sono arrivate dalla Cina, con il PIL del primo trimestre cinese salito di oltre l'11%, ma poi durante la mattinata hanno girato in negativo, sono ora deboli: Francoforte meno 0,11%, Parigi meno 0,15%, Londra meno 0,07%, anche Milano non fa eccezione, il FTSE MIB cede lo 0,21%, il FTSE IT All Share lo 0,19%. Per quanto riguarda il listino milanese, tra i titoli più venduti, Parmalat meno 1,29%, Campari meno 1,17%, UbiBanca meno 1,06% e Italcementi meno 1,04%. Ha girato in negativo anche Intesa San Paolo meno 0,8%, nonostante il consiglio sovrappesare per le azioni da parte di JP Morgan, il titolo quindi è passato in negativo. E poi invece fra i titoli del paniere principale positivi segnaliamo gli energetici in generale: Tenaris più 0,6%, Enel la migliore più 1,08%, Fiat sale dello 0,6% ampliando i guadagni dopo la buona intonazione di ieri, un settore che viaggia sopra la parità in Europa. Oggi le azioni beneficiano del giudizio di Bernstein, che ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 10 a 11 euro. Intanto il mercato è in attesa della presentazione del piano industriale il prossimo 21 di aprile. Poi Pirelli, che era la migliore del listino poco fa, ora è leggermente scesa, più 0,44%, in attesa dello scorporo dell'attività immobiliare, argomento che sarà affrontato nel CDA e nella riunione del patto fissati per il prossimo 4 di maggio. E poi invariata Telecom, che lo scorso 13 aprile, prima era positiva, lo scorso 13 aprile ha presentato alla comunità finanziaria i conti 2009, il nuovo piano industriale. Euro oggi debole sul dollaro, dicono gli analisti delle valute per motivi un po' speculativi, è quotato a 1,3544 dollari. Torniamo a noi, ossia alle case verdi, cosiddette case ecologiche, gli incentivi per chi vuole comprare una eco casa. Innanzitutto bisogna dire che nel caso di un immobile di classe A, vale a dire con un fabbisogno energetico migliorato del 50%, la quota di contributo previsto è pari a 116 euro per metro quadrato fino a 7.000 euro. Ci sono però anche incentivi per la classe B, ma sentiamo i particolari in questa scheda. Se per gli incentivi a elettrodomestici, moto, cucine componibili e banda larga il via libera ufficiale scatta oggi, per la casa verde la corsa agli incentivi è partita lo scorso 6 aprile. Per usufruire delle misure varate dal governo per le cosiddette ecocase, il contratto preliminare di compravendita dell'immobile deve essere infatti stipulato successivamente a martedì 6, giorno di entrata in vigore del decreto incentivi. Nel caso di un immobile di classe A, vale a dire con un fabbisogno energetico migliorato del 50%, la quota di contributo previsto è pari a 116 euro per metro quadro, fino a 7.000 euro. Se l'immobile invece di classe B fa bisogno energetico migliorato del 30%, il contributo sarà di 83 euro per metro quadro di superficie utile, fino a un tetto di 5.000 euro. In entrambi i casi l'immobile deve avere un doppio requisito, essere una nuova costruzione e prima casa. Per richiedere il contributo, dunque, il compratore deve essere in possesso del certificato energetico e del contratto preliminare di compravendita. Entro 20 giorni prima del contratto definitivo, dovrà essere effettuata la prenotazione per ottenere lo sgravio, correlata da una serie di documenti, come la tipologia di classe A o B, la superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo, il codice fiscale e i dati bancari dell'acquirente e, naturalmente, il prezzo base dell'immobile al lordo dell'IVA. Una volta stipulato l'acquisto definitivo, la documentazione deve essere inviata a cura dell'acquirente entro 45 giorni. Questi i dettagli nella nostra scheda per parlarne con noi e soprattutto con i nostri ospiti che potranno chiarire alcuni nodi ancora irrisolti. Il numero verde è l'800240024, via sms invece 349-238-6666. Ingegnere Valeria Erba, presidente ANIT, abbiamo detto l'Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, vi stanno arrivando molte richieste, mi diceva, sì, ci hanno... di chiarificazione. Sì, ci hanno chiamato per diverse richieste di chiarificazione e vorrei puntualizzare una cosa. Il discorso legato al miglioramento del fabbisogno energetico è questo è quanto riportato nel decreto, ossia è importante cercare di non fare riferimento solo alla classe A o alla classe B, perché ci sono regioni che hanno legiferato in maniera autonoma, che hanno una classificazione diversa da quella nazionale e quindi in Lombardia, ad esempio, dove siamo noi, la classe A e la classe B non sono le stesse di cui si parla nel decreto incentivi. Quindi un edificio in Lombardia di classe B non è detto che rientri negli incentivi previsti, perché non è un edificio che ha un miglioramento del 30% dell'efficienza energetica. Ci sono molte regioni, no? Mi diceva che ce ne sono diverse che hanno legiferato e stanno tuttora legiferando, perché le regioni si stanno muovendo pian pianino un po' tutte per legiferare un po' in maniera autonoma in questo senso. E in questo caso vale la legge regionale o il decreto? Allora, il decreto fa riferimento all'indice di fabbisogno energetico, quindi all'EP, quindi un miglioramento del 30% e allora abbiamo gli 83 euro al metro quadro. Con un miglioramento del 50% del fabbisogno energetico rispetto a quello limite, e allora ho i 116 euro al metro quadro di contributo. Il certificato energetico è il punto un po' critico, perché viene richiesto il certificato energetico e in Regione Lombardia il certificato energetico ufficiale è quello della Regione Lombardia e quindi è quello della procedura della Regione Lombardia, per il quale la classe A e la classe B non sono quelle in cui si fa riferimento in questo decreto. Chiediamo a questo punto anche noi, tramite voi, un chiarimento in questo senso, perché io parlo di Regione Lombardia perché siamo qui in questo momento, però ce ne sono altre, l'Emilia Romagna, il Piemonte, ce ne sono diverse. La Liguria, appunto, la Liguria, però la Liguria ha una procedura simile a quella nazionale, quindi diciamo che in Liguria sono più facilitati perché la procedura è la stessa. I liguri sono al riparo da confusione. Sì, esatto. Notaio Giovanni Rizzi, membro della Commissione, abbiamo detto, degli studi civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato. Immagino che anche voi siate in attesa di qualche chiarimento da questo punto di vista. Sì, anche noi siamo in attesa. E i tempi sono stretti, perché bisogna nel caso richiederli entro fine anno. Sì, anche noi siamo in attesa di chiarimenti, perché come spesso succede la normativa non è molto chiara in alcuni punti. Ad esempio sui due requisiti della nuova costruzione e dell'acquisto per prima abitazione della famiglia. Nuova costruzione dovrebbe intendersi quindi qualsiasi costruzione, qualsiasi abitazione, diciamo, che non è stata utilizzata in nessun modo. Non necessariamente deve essere un'abitazione la cui agibilità sia recentissima, può essere anche un'abitazione costruita da parecchi anni che il costruttore non è riuscito a vendere, l'importante è che non sia stata in qualsiasi modo utilizzata, almeno così dovrebbe intendersi la nuova costruzione. Per quanto riguarda invece l'altro requisito, quella dell'assegnazione dell'abitazione della famiglia, anche qua si aprono degli interrogativi, cosa si intende per abitazione della famiglia? Ad esempio, se compra un single, ha diritto oppure questa famiglia deve essere un qualcosa di diverso? Quindi che nozione di famiglia ha adottato in questa disposizione il legislatore? Secondo noi in termini abbastanza tecnico, quindi anche il single sicuramente può accedere a questi incentivi. Sicuramente noi riteniamo che non valgano le limitazioni, ad esempio, dell'acquisto prima casa previste sotto il profilo dell'imposta del registro dell'IVA, quindi anche il soggetto che già possiede una casa nel comune di residenza, se vuole comprare nello stesso comune un'altra casa classe A o classe B, potrà valersi dell'incentivo se poi destinerà questa nuova casa a propria abitazione, anche se non può in questo caso ad esempio accedere ai benefici prima casa di IVA imposta di registro. Tra l'altro, anche per dare ulteriori informazioni, il contratto preliminare di compravendita deve essere successivo al 5 di aprile 2010, il rogito di compravendita dell'immobile deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2010. Bentornati a Salva Danaio, oggi il tema è quello degli incentivi, in particolare per le cosiddette case ecologiche. Stiamo parlandone con alcuni ospiti, con l'ingegner Valeria Erba e con il notaio Giovanni Rizzi, al quale chiediamo una precisazione, perché lei, notaio, prima diceva che c'è un po' di confusione su alcuni punti, in particolare sul fatto che sia la prima casa, che siano indirizzati a chi si costruisce e si fa compra una prima casa, ma nel decreto, mi faceva notare l'ingegnere, c'è scritto prima abitazione, è da questa parola che nasce voglio dire l'opacità, per cui lei diceva in realtà si potrebbe anche portare avanti per una seconda casa. Allora, nel decreto parlo di prima abitazione, sì, della famiglia. Quindi può essere che un soggetto, l'esempio che facevo prima, abbia oggi un'abitazione, però sta trattando per comprarne un'altra, nell'intenzione o di vendere l'altra casa oppure di tenersela come seconda casa. Quindi se io oggi possiedo anche un'altra casa, ma nello stesso comune di residenza voglio comprarmi una nuova casa ad alta efficienza ecologica di prestazione energetica, io potrò a comprare questa casa, sempre se ricorrono tutti gli altri requisiti, a valermi dell'incentivo e poi lì dovrò andare a trasferire la residenza mia e della mia famiglia. Quindi comunque prima casa diventerebbe la prima casa perché l'altra va venduta. Va venduta oppure viene tenuta come seconda casa perché viene affittata, locata a terzi. L'importante è che nella casa per cui si chiede l'incentivo andrà poi fissata la residenza, la dimora della famiglia per il futuro. Grazie di questo chiarimento, che anche l'ingegnere diceva che aveva dei dubbi, che c'erano dei dubbi su questa interpretazione del decreto. Tra l'altro Elisa, un'ascoltatrice che ci scrive al 349-238-6666, solleva il problema del numero verde. Esiste un numero verde, infatti, ve l'abbiamo dato anche ieri, un call center informativo di assistenza che risponde alle vostre domande, appunto. È un call center istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e è l'800-123-450 per la rete fissa, 199-123-450 dalla rete mobile. Ma Elisa e anche noi in realtà abbiamo provato a chiamare, ma è sempre molto difficile, probabilmente in questi giorni di avvio degli incentivi le linee sono congestionate e anche gli ascoltatori ci confermano il fatto che sia difficile riuscire a parlare con qualcuno. Ma invece noi diamo voce agli ascoltatori che riescono a parlare con noi. Riccardo da Brindisi, buongiorno. Salve, buongiorno. Lei ha una domanda? Sì, volevo chiedere se questi incentivi sono validi anche nel caso di permuta, perché io sto trattando la permuta di una vecchia abitazione con un costruttore per avere chiavi in mano due appartamentini, per me e per mio fratello. Notaio, credo che sì, sia una domanda per lei. Allora, anche questo è uno dei punti da chiarire, perché il decreto parla essenzialmente di vendita, quindi teoricamente bisognerebbe escludere tutto ciò che vendita non è. Io sinceramente, anche nei miei primi commenti che abbiamo redatto, sarei possibilista proprio per la permuta, nel senso che ricomprenderei anche la permuta. c'è una norma di codice civile che è il 1555 che ci dice che alla permuta si applicano tutte le disposizioni vigenti in tema di vendita se compatibili. Io vedrei che lo scopo, la razza della norma, lo spirito con cui è stata emanata questa normativa possa essere salvaguardato anche in caso di permuta, cioè io cedo l'impresa magari dei vecchi fabbricati che poi l'impresa andrà a ristrutturare per avere in cambio fabbricati ad alta efficienza energetica, perché, quindi non vedo perché non possa godersi dell'incentivo anche in caso di permuta, però anche questo è un punto che il Ministero dovrà ovviamente chiarire. Io sono possibilista personalmente. Roberto da Milano ci scrive, immobile in costruzione, la classe mi dicono viene accertata, lavori conclusi, per verificare la conformità del lavoro fatto con quanto messo a progetto ovviamente. Quindi la classe energetica dell'immobile ad oggi mi pare una dichiarazione di intenti. Era un tema di cui parlavamo, del quale parlavamo anche con l'ingegnere Erba, quello di poter portare una documentazione che attesti già lo stato quando i lavori non sono conclusi. Sì, diciamo che l'altra cosa è che l'attestato vero e proprio di certificazione energetica viene redatto a fine lavori, quindi il fatto di comunque avere questo attestato di certificazione energetica ancora anche per prenotare i contributi da parte del venditore a volte risulta difficile. La maggior parte dei costruttori è ovvio che fanno una loro prima valutazione, quindi fanno una prima valutazione di efficienza energetica e dichiarano anche in fase di vendita una classe indicativa. Costruttori seri, diciamo, tendenzialmente riescono a mantenere più o meno la classe prevista e promessa, però non sempre è così. E comunque l'attestato ufficiale di certificazione energetica, quindi registrato nelle regioni dove c'è una registrazione o quant'altro, è a fine lavori, quindi a edificio concluso. Spesso e volentieri il costruttore vendono sulla carta dove non ci sono neanche le fondazioni, quindi questo risulta un po' complesso a livello tempistico. Ingegnere, i fondi stanziati dal governo sono 60 milioni in tutto, e lo dicevamo prima, lo diceva anche la nostra scheda, per immobile fino a 7.000 euro, quelli con un fabbisogno energetico migliorato del 50%, fino a 5.000 euro invece quelli fino al 30%. Lei mi diceva forse un po' poco per stimolare l'acquisto di questo tipo di immobili? Sì, nel senso che impressione avete? Ci sarà richiesta? Ma la richiesta vediamo che c'è effettivamente, perché comunque ci chiamano anche i costruttori per chiederci chiarimenti, perché gli acquirenti richiedono questo contributo. È ovvio che nessuno butta via, diciamo, 5.000 o 7.000 euro, per l'amor del cielo. È ovvio che una casa di classe A, se vogliamo chiamarla, comunque ad alta efficienza energetica, ha dei costi, un edificio nuovo ha dei costi non indifferenti. Su questi costi 5.000 euro forse sono effettivamente un po' pochini. Detto anche tutto quello che c'è dietro, ossia tutto quello che deve fare il venditore, tutto un certo tipo di procedura che deve fare il venditore, che deve poi portare avanti anche l'acquirente spedendo dei documenti e non sapendo neanche effettivamente poi se il contributo andrà a buon fine, nel senso. Luciano ci ha chiamato all'800240024. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per l'attesa. Dica. Volevo chiedere un'informazione, se io costruisco io una casa e acquisto da un'azienda una casa di classe A o B, anche quella si può intendere come acquisto, cioè rientra nell'agevolazione? Cioè lei sta costruendo da sé la sua casa? Io costruirò la casa, diciamo, nei prossimi mesi, acquistando da un'azienda che produce case in via edilizia di classe A o B, eppure quello si intende un acquisto oppure no? Rientra nelle agevolazioni? Non capiamo se l'acquista da un'impresa oppure se... Un'impresa, una ditta costruttrice che costruisce case di classe A o B. Sì. E la costruisco io sul mio terreno, diciamo. Ah, quindi il terreno è suo, sì, ho capito. Sì. Rientra nell'agevolazione oppure no? Si intende acquisto solo, cioè, fabbricati esistenti che acquisti da un'impresa? Grazie Luciano. Sì, ingegnere Erba. Rientra sicuramente, nel senso che comunque è un acquisto di una nuova abitazione, quindi rientra, penso che rientri sicuramente. Ecco. Roberto da Torino, buongiorno, benvenuto. Senta, un quesito gentilmente. Io e mia moglie siamo proprietari di un immobile. Sì. Ne vogliamo acquistare uno più nuovo, per cui più recente, mentre la casa che abbiamo ha circa 45 anni, quella che andremo ad acquistare ne ha circa una ventina. Per cui un'efficienza energetica migliore. Ci hanno consigliato che uno dei due dovrebbe vendere il proprio 50% all'altro per poter acquistare l'altra casa come prima casa, in quanto in questo momento per difficoltà di mercato non riusciamo a vendere E volevo sentire il notaio, visto che era in linea, se è un'operazione che ormai posso evitare ed entrambi possiamo acquistare la nuova casa tenendo l'altra come seconda. Grazie. Notaio, grazie, è stato chiamato proprio a rispondere. Qua siamo fuori tema, nel senso che non è tanto una questione di incentivo, da quello che capisco, perché se una casa è di 20 anni, la nuova sicuramente difficilmente rientra nella B e nella classe A. E qua è una questione di agevolazioni prima casa, un po' anche l'esempio che facevo prima, come le agevolazioni prima casa, certamente chi già possiede anche una quota col coniuge di una casa nel comune di residenza, se va a comprare un'altra casa, le agevolazioni ai fini dell'imposta di registro non ce le ha, mentre dicevo prima che potrebbe avercele invece per l'incentivo se si tratta di una casa di classe A, classe B. Chiaramente nel trasferire a uno dei due coniugi l'intera proprietà, il soggetto che rimane senza più alcuna proprietà potrà comprare la nuova casa con l'agevolazione di prima casa. Ma questo mi sembra sia un tema che siamo andati un po' fuori tema. Ingegnere Erba, un ascoltatore via SMS ci riporta nella questione di cui parlavamo prima, ossia del fatto che questo decreto in qualche caso non va d'accordo con le leggi regionali, e questo ascoltatore sottolineava neppure con i parametri europei. C'è anche questa, avete avuto anche voi l'impressione che ci fossero delle differenze, più con le leggi regionali forse? Non, bisognerebbe capire in che senso con i parametri europei. È un SMS, in effetti lo invitiamo a chiamarci l'800 24 00 24, perché nell'SMS chiaramente non si spiega pienamente. Cioè, il discorso che non vada d'accordo con le leggi regionali non è che non vada d'accordo, è capire che cosa bisogna fare, nel senso che il decreto fa riferimento solo alla legge per la certificazione energetica nazionale, che ha una classificazione ben definita, per cui ho i parametri di classe A e classe B che vanno bene con quanto richiesto da questo decreto. Quelle regionali hanno una classificazione diversa. Un altro ascoltatore, sempre via SMS, chiede come deve essere calcolata la superficie utile. Si fa riferimento alla superficie commerciale? Sì, alla superficie netta calpestabile, esclusi i muri sia interni che esterni. Benissimo. Antonio da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia domanda era, io ho fatto il componente il 15 marzo, dovrei erogitare a luglio 2010. Ormai non posso avere l'incentivo? Temo di no. Il 15 marzo diceva. Sì, esatto. Allora. Sì? Sì. Diceva allora, il 15 marzo. Sì, notaio. Se preliminare del 15 marzo non ci sono chance, nel senso che la disposizione del decreto è chiarissima nel porre come condizione quella di un preliminare avente data certa, quindi deve essere registrato o redatto con atto notarile successiva al 6 di aprile del 2010. Cioè lo scopo della norma probabilmente è questo, l'incentivo è quello appunto di spingere nella scelta futura del mercato immobiliare verso gli immobili di classe A e B. Chi l'ha già fatta quella scelta prima l'ha già fatta, quindi non c'è nulla da incentivare. Antonio, cui... ancora in linea? Sì, sono ancora in linea. Il suo era un immobile di classe A o B? Classe B. Di classe non B. Lo ritengo giusto, nel senso che il compromesso non vuol dire che uno acquista definitivamente, l'acquisto si fa oggi. Purtroppo però ci devono essere delle date, e su questo almeno il decreto è molto molto molto chiaro. Bentornati a Salvadanaio, oggi parliamo degli incentivi, in particolare gli incentivi destinati a chi vuole acquistare una ecocasa, una casa ad alta efficienza energetica. Ricordiamo che il tetto dei fondi stanziati è di 60 milioni di euro e va a esaurimento, dunque bisogna affrettarsi e soprattutto bisogna informarsi per capire se si rientra nelle categorie. Per farlo oggi abbiamo alcuni ospiti, abbiamo anche le vostre telefonate all'800 24 00 24. Roberto da Parma, grazie per l'attesa. Roberto? Sì, sì, ci sono, mi sente? Sì, sì, dica. No, io volevo chiedere una cosa, forse è già stato chiesto prima, però non sono riuscito a sentire bene la risposta. Io ho alcuni immobili da vendere che sono in classe B, con la legge regionale dell'Emilia Romagna, però volevo sapere come se è compatibile poi con i criteri nazionali, cioè visto che le leggi regionali si differenziano in parte dalla normativa nazionale, come bisogna comportarsi, bisogna rifare la certificazione con la legge nazionale. Grazie Roberto. Ingegnere sì, Erba. Allora, per valutare se possono accedere agli incentivi basta prendere il certificato energetico andare sul certificato energetico a recuperare il fabbisogno energetico, l'EPI, così si chiama a livello tecnico. Se quel fabbisogno energetico è migliore del 30% o del 50% rispetto a quello limite dell'allegato C delle tabelle del 192, limite del 2010, allora rientra nei contributi. Come poi dopo dimostra quello, sia che attestato energetico lei debba consegnare, e questo è un dubbio che ci siamo posti anche noi, nostra interpretazione come associazione è che comunque l'attestato energetico ufficiale è quello della regione e quindi quello è quello che vale. Poi ci dovrà essere una seconda, diciamo, dichiarazione che dice: bene, questo è l'attestato energetico, il fabbisogno energetico riportato è questo e è migliore del 30 o del 50%, a prescindere dalla classe poi energetica dell'Emilia Romagna, ecco. Notaio Rizzi, ci chiedono, Sergio da Bergamo ci scrive: è necessario registrare dal notaio il contratto preliminare? No, il decreto richiede un preliminare con data certa, e la data certa la si può ottenere anche con la semplice registrazione di una scrittura privata, quindi non è necessario che sia un atto notarile. Sentiamo ancora qualche ascoltatore. Graziella dalla provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno. Si dica. Sì, senta, allora io intanto mi sono appena messa all'ascolto, quindi potrebbe essere che abbia perso qualche parte nella premessa e quindi posso fare una domanda sciocca. La mia domanda è: io ho acquistato 2 anni fa una Voghera. Non la sentiamo bene, Graziella, può ripetere, ha acquistato? Un piccolo appartamento nel centro di Voghera, l'ho acquistato, insomma era abbastanza fuori uso, e l'ho ristrutturato tutto secondo le richieste, cioè sì. I doppi vetri, il fondo, eccetera. Quindi classe A, diciamo. È stato classificato come, poi anche a livello energetico, come classe A, cioè la ristrutturazione l'ho fatta in modo tale da avere la classificazione A, anche sì. A livello energetico. E la domanda era: se io adesso lo sto vendendo, chi va ad acquistare, non essendo proprio definito nuovo, ma ristrutturato a nuovo, può usufruire a sua volta di questo incentivo di cui stavate parlando? Grazie. Notaio, mi pare di capire che deve essere una nuova costruzione, quindi forse no. Allora, qua si pongono 2 questioni. Quello della se la ristrutturazione può essere considerata ai fini della nuova costruzione. Io ritengo di sì, se una ristrutturazione radicale che ha coinvolto l'intero fabbricato possa essere equiparato alla nuova costruzione. E qua il problema è capire se dopo terminati i lavori di ristrutturazione questo bene è stato usato o meno, cioè concesso in locazione o usato direttamente dal proprietario, perché come abbiamo detto prima, nuova costruzione significa immobile che comunque non sia stato utilizzato da che sono stati ultimati i lavori. La terza questione poi che si innesta in questa situazione è: l'incentivo vale solo per le vendite fatte da imprenditori o anche da privati? Il decreto anche questo non lo chiarisce, non pone limitazioni di sorta, però se andiamo a vedere le istruzioni, vediamo su un punto, là dove chiede la registrazione del venditore, chiede il numero REA di repertorio economico, poi chiede tra i vari dati per la prenotazione il prezzo al lordo di IVA, il che farebbe presupporre che si debba trattare sempre di venditore impresa, cioè di un soggetto che emette fattura IVA che è scritta al REA. Però il decreto effettivamente non pone limitazioni, quindi potrebbe essere un privato. Forse ha bisogno anche in questo di una chiarificazione. Sì, certamente. Andrea da Padova, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Dica. Allora, la domanda è questa: avendo stipulato un contratto preliminare prima della data del 5 o 6 aprile, non ricordo, io andrò a fare il definitivo, per cui andare a Rosito tra breve. La domanda è questa: sostanzialmente è possibile stracciare, per così dire, il preliminare fatto in modo tale da, avendo verificato poi tutti i requisiti ovviamente, quello di diciamo di fare un preliminare di nuovo e di conseguenza poter avere così gli incentivi che si stava parlando? Notaio. No, temo questa anch'io è una pratica che sconsiglierei vivamente, perché chiaramente che non siamo nell'ordine se il preliminare precedente era già stato registrato o fatto operato notarile, quindi c'è un atto che ha una data certa e quindi non si può certo cancellare dalla realtà dei fatti giuridici. Ma anche se si trattasse di un preliminare diciamo, non registrato, fatto in precedenza, non registrato, certo formalmente si potrebbe ripetere il preliminare e registrarlo dopo il 6 aprile, però normalmente il preliminare cosa comporta? Ha comportato delle dazioni di somme, quindi un soggetto che ha versato un'impresa delle caparre, degli acconti che magari sono stati fatturati, che sono stati contabilizzati, e anche queste sono fatti, circostanze che non si possono cancellare, per cui poi si potrebbe veramente incorrere magari in grossi guai col Ministero se poi ravvede in tutto ciò magari degli intenti anche fraudolenti. Certo. Quindi io sconsiglierei una simile pratica. Certo. Ingegnere, un'ultima domanda veloce. Per accedere agli sconti, ci chiedono, bisogna avere un determinato reddito? No. Credo proprio di no. Non c'è scritto niente. Quindi per chiunque. Allora, io ringrazio tutti voi per essere stati all'ascolto. Ringrazio l'ingegnere Valeria Erba, presidente dell'ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico ed Acustico, il notaio Giovanni Rizzi, membro della Commissione Studi Civilistici del Consiglio Nazionale del Notariato. Rimaniamo in attesa di chiarificazioni da parte del Ministero. A quel punto, forse, chissà, potremmo rifare una puntata con le vostre domande per cercare di capire quello che sarà a quel punto più chiaro anche per noi. Prima di concludere, anche oggi vi ricordo che il 21, 22 e 23 aprile a Milano si svolgerà il Salone della Gestione del Risparmio, un importante evento italiano interamente dedicato al settore del risparmio gestito. 3 giorni in cui i professionisti del settore incontreranno autorità, mondo accademico, istituzioni per confrontarsi sui temi dell'educazione finanziaria. In vista di questo appuntamento anche Radio 24 continua un percorso per spiegarvi quali sono le parole del risparmio, e vi ricordiamo che domani la puntata di Salvadanaio sarà proprio su questo tema, ma la parola di oggi è switch riscatto. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Chiunque decida di fare un investimento non lo fa di certo per sempre. Esiste infatti una grande libertà di movimento per gli investitori, così che possano distribuire i loro risparmi con più attenzione. Chi sottoscrive un fondo o un qualsiasi altro tipo di investimento ha quindi la possibilità sia di spostare il proprio capitale, sia di ritirarlo definitivamente. Lo switch, ovvero conversione, permette il trasferimento della propria posizione da un investimento ad un altro. Chi decida di spostare il proprio patrimonio lo potrà fare però nel rispetto dei tempi minimi richiesti da un regolamento e secondo costi prestabiliti. Il riscatto, invece, consiste nella liquidazione della propria posizione dal fondo di investimento senza passare ad un altro e può avvenire ottenendo la restituzione delle somme corrispondenti nel rispetto di determinate condizioni. Le parole del risparmio. E del Salone del Risparmio parleremo anche noi di domani. Proprio invece oggi il tempo a nostra disposizione è finito. In regia Carmelo Lauricella, in radiazione a Soldi e Dintorni, a Salvadanaio, Gaia Romani, Alessandro Longoni. Grazie da Valentina Furlanetto a tutti voi per essere stati all'ascolto. A domani, ciao a tutti. Purtroppo è così, Antonio. Grazie di aver chiamato.